che mamuzima aka che mingo ziziakwe akasa kamala na ino ya soa ai konchele la nuku za zionsi eka che mamuzima aka che mingo ziziakwe akasa kamala na ino ya soa ai konchele la nuku za zionsi eka che mamuzima Shose Eka che mamusuma ala che mempanga shakwe ala sakamana na iyo ya luba ai konkelela no kushashose Eka che mamusuma Eka che mamusuma ala che mimozi shakwe ala sakamana na iyo ya soa aha ai konkelela Oh, wapotwa.